chiacchierata. Ciao, grazie. Ciao, grande, ciao, ciao. Strato secco, magro lattico, una delle parole importanti che useremo questa sera nella puntata numero 26 di questo Opencast Alpha. Scusa? Stagione season number 3. Non ho capito quello che hai season detto. Season number 2. No, è quello prima che... Season, strato secco, magro lattico. Sì. Niente, la classica parola per farti dire e poi... Senta, Niente, vabbè, non si... Pa! Ok. Parleremo veramente di un sacco di cose in questo Opencast Alpha numero 26, soprattutto di miniaturizzazione tecnologica che sta, come dire, insomma, influenzando molto il mercato di questi ultimi mesi con delle bellissime schedine ARM che tutti vogliono ma nessuno, quasi nessuno riesce ad avere. Persone che l'hanno prenotata da mesi. Sì? Ce l'ho. Ah, ce l'hai? Però ti è arrivata. Mi è arrivata e ce l'ho in macchina. Uno dei pochi fortunati che ce l'ha in macchina. Peccato che non parte. Peccato che non c'è più la tua macchina. C'è solo anche il... Io vado. Non parte la macchina. Non parte la macchina. Okay, però la scheda va benissimo. Non è quella di mio padre. È un Raspberry. È un Raspberry Pi. Pensate che vogliono creare un gelato per quest'estate che si chiama Raspelli Ice. Raspberry Fizz Forever. Mi dà un Raspberry e un... con un'altra marca non la possiamo assolutamente dire. Ha detto Raspelli. Quindi Raspelli. Hai detto Raspelli. Raspelli per la Centrocamp, per Cameranesi. Ancora Raspelli di Nebaggio. Ma è possibile che abbiamo pure pareggiato? 1994. Abbiamo pareggiato. Ma che tristezza. Tutta molto bella. Dicevi, Fabio? Vai pure avanti. Dicevo, allora, vai Giampiero, sei a bordo campo, Giampiero sei in linea. Ma che linea, linea Bruno che peso 200 kg, comunque i gratissimi eventi della RAI. Ma voi lo capite che è difficile stare serio poi qua dentro? È difficile. No, ma tu lascialo tu ascolti Opencast. No, ho smesso. Ma ragazzi, ragazzi, ma rendetevi conto di che musiche di sottofondo abbiamo. Questa sera abbiamo delle musiche che sono al limite dell'erotico, un po' da film di Tinto Brass. Vabbè, ragazzi, va bene. Non c'è bisogno che dite no, bravissimo, perché è roba mia. È tutta roba mia. Stai facendo dei versi un po' sì, così, o stavi simulando una canzone? O stavi simulando una canzone simulata? È venuta molto male. Quando pensavo in quei momenti fosse tu simuli canzoni e simulo canzoni. Ma chi era? C'era una volta una vacca. Volevo salutare il mio amico che aveva una macchia nera sul muso. Non esattamente il muso. Non era proprio quella. E non era una macchia. E come diceva la mia professoressa di italiano al mio amico, che non farò nomi. Solo codice fiscale. Benzoni. Benzoni. Diceva: tu sei un tipo poetico, parli a versi. Perché insomma, e lui faceva esatto. Salutiamo Benzoni, la prof di italiano, grandissima. Ma torniamo al, ragazzi, cerchiamo di riportare alla tecnologia. Bene, chi vuole cominciare a parlare di queste scatolette magiche che stanno invadendo i nostri mercati? Chi ce l'ha? Ci sono tante. Io ce l'ho. Allora, quali sono le novità in questo settore, in ambito? Beh, allora, il Raspberry funziona stranamente bene. Ma cos'è che c'è installato su? Ho messo una Debian. Quake. Una normalissima Debian Quake. 6. Vediamo qui qualcosa. 3. FPS. Con il kernel 3 funziona discretamente bene. OpenGL. Che porte ha? OpenGL. Ha una Ethernet. Un'uscita HDMI. Un'uscita video, quella composita, giusto? Quake composita, dico giusto? S super video, sì, sì. Ma dove no, non è S video. Non è quella che è composita. È il composito normale, okay. Quella con il cazzillo che entra. Quella cosa. Sì, quella gialla. Quella gialla. Che se vuoi ci attacchi anche un cavo audio. Così funziona lo stesso. Funziona lo stesso, sì. Qualcosa fa vedere. Sì, sì. RCA. Esattamente. Poi abbiamo anche un jack. Jack è l'amico di Bob. E sai che fanno questa sera Jack e Bob? E cosa hanno fatto Jack e Bob? Dimmelo. Jack e Bob si sono sparati un sistema operativo nuovo. No, sulla nuova scheda. Su una nuova scheda. Sapevo. Sì, con un nuovo processore a 10. Non ci si può fidare di quei due. Sono dei poco di buono. Sono. Sì, certamente, guarda. E l'altra sera sai che c'era anche Little John. Sì, proprio lui. Little John? Sì, sì, anche Little John. Sì. E Robin Hood dove è rimasto? Robin Hood è diventato gay nel frattempo. Allora, si dice culatone. No, frocio. Maledizione. Vabbè, no, era diversamente eterosessuale. No, vabbè, ragazzi, questo qua non voleva essere assolutamente. Assolutamente. Allora, non vogliamo parlare dell'omofobia. Non è il discorso di omofobia, ok? È che da una rapa non è che puoi pensare di tirar fuori un pensiero normale. Stiamo parlando veramente di queste cose? No, assolutamente. Allora, parliamo di 0 e 1. Allora, okay, che processore c'ha sto coso qui? Monta un Raspberry Broadcom. C'è un chipettino integrato Broadcom che fa tutte le varie cose. Chip. Fa anche chip del caso, e è un ARM 8, 9, 10. Deciditi. No, di più. È un ARM 8. Compra una vocale. Non è il Cortex A8, di questo adesso non mi ricordo. È un 600 MHz. Sì, è un 600 MHz. Tanta fortuna. Ma Full HD, no, dai. Sì, fa andare video in Full HD perché monta i DSP, ha tutti i DSP per la decodifica. Quindi lo fai in hardware. Sì, esattamente, tutto hardware. Infatti, quando decodifichi il video, però per farlo ho dovuto ricompilare una distro apposta che è XBMC. Okay. Che va ricompilata perché non c'era un'immagine funzionante. Come si chiama veramente? Hai fatto un'immagine di XBMC. Chiamo XBMC perché diventa brutto. No, cioè, hai fatto un'immagine di XBMC per Ci sono i sorgenti, scarichi e compili. Pubblicalo per chi non ha voglia di farlo. In realtà ci sono delle immagini, però a me non funzionavano, sarò stupido. Aspetta che ci penso. No. Comunque, forse beh, comunque è un mercato molto in fermento, perché ho visto che ci sono parecchi dispositivi. Per esempio sta avendo molto successo quello di Via, sentivo oggi. Vai Via, che monta un Via, un A8 da 1 GHz, se non vado errato. Ma Via faceva anche i processori suoi. Sì, fa anche Via fa i suoi processori. Ah, scusate, sì, allora un Marvel, sempre, è un Marvel, è un Marvel. Esatto. se non erro intorno a gigahertz, 500, costa insomma tipo $49. Cazzo. Però $28 di spedizione. Ormai ce ne sono tanti. Parli ciuppoli. Sì, così. Dalla terra del sole levante. Stavo pensando, dobbiamo aprire degli spedizionieri, proprio aprirli fisicamente. Sì, aprirli. Per capire i soldi dove vanno a finire. No, il problema è che queste schede sono molto carine. Tra l'altro, un processore che adesso sta prendendo gran piede è l'Allwinner A10. Pensavo il Fit. No, l'Allwinner A10. Che lo montano sulla K208 e qualcosa. Sì, lo stanno montando un po' dappertutto, a dire la verità. Fanno cellulari con l'Allwinner A10, fanno delle schede, fanno dei media center. Stanno facendo un sacco di cose interessanti con questo chip che è low cost. Low. Ha le prestazioni paragonabili a quelle Montalmali come CPU grafica, sì. Quindi come quello che c'è negli A9 attuali. Ed è tanto tanto bello, tipo sono uno e qualcosa gigahertz, questi dati precisi. Sì, un gigahertz e mezzo. Sì, un gigahertz e mezzo. Sì, sono comunque, ci sono già delle schede USB che lo integrano. Che lo integrano, esatto. E il vantaggio dollari. È che è super low cost. $80 per tutta la scheda con case e tanta fortuna. Poi ci sta di tutto quello che vuoi. Tutto quello che dipende, vedi come te lo fornisco. Comunque tendenzialmente sì. Stavo pensando degli aggeggi. Sento una presenza. È doppia stasera, tra l'altro. Che cos'è? Oh mio Dio. Si è sdoppiata. Hai messo la sparare, non ti preoccupare. Ho detto che non la dovevi bagnare dopo mezzanotte. Cresce. Cresci, Johnny, cresci. Dici cosa, dici? E stavo dicendo. Possiamo andare con le news shock altrimenti. Finalmente possiamo parlare di cose serie. Finalmente è uscita la nuova versione di Mandriva. Allora, cioè, ve la siete cercata? La prima alfa di Mandriva 2012. Ce l'abbiamo fatta. Oh, quando oramai Mageia spopola. Popola. Ma esiste ancora? Esiste sì, ancora? Allora, stanno iniziando a tirarla fuori. E indovinate come la vogliono chiamare? Come la vogliono chiamare? Benny? Ma sai che Benny? Benny Collina? Benny quello di Weekend con il morto. Ah, lo zombie che si muoveva a suon di musica. Quello morto? Quello sì. Di buon auspicio. Benny sì. Lomax. Cioè si chiama proprio così, nome e cognome. Benny Lomax. Ma sapete chi è che usa Mandriva? Chi? Non facciamo nomi, eh. Non si può. Non facciamo nomi. Quello che ha fatto la base musicale dell'ultimo Opencast. Si è mosso un dito. Usava Mandriva. Adesso Mandriva, vi spiego molte cose. Vabbè, diamo il suo IP. 1.2.8.9.10. 8888. Okay. Ho visto nel file che c'era scritto che era fatto con LMMS. Mamma mia. LMMS. È di vecchia data. Mamma e comunque diciamo che ha delle bellissime prospettive questo nuovo sistema operativo. E diciamo che chi? Lo danno già per morto, esatto. Che prospettive. Ecco. Ma tanto adesso arriverà la zombie apocalypse, quindi siamo tutti rovinati. Va bene così. Comunque le cose positive sono kernel 3.4, il pensavo kernel c'è. Kernel è una cosa positiva. C'è. Perfetto. Non è detto. C'è. Thunderbolt e Firefox 13, che uno dice "Vabbè, io mi tocco". Sì, vabbè. Vabbè, ma io ce l'ho già. Infatti ti vedo che ti tocchi. A proposito di vedo che ti tocchi, volevamo far presente che no, è i di link prossima... li diamo dopo, scusi, no, un attimo dopo. A proposito di vedo che ti tocchi e di fine del mondo, vi segnaliamo la distribuzione Maya Linux che al contrario di quello che possiate pensare, sì, ha dei riferimenti al 2012 e Maya, ma ha come peculiarità il colore rosa dello sfondo e l'indicizzazione di tutti i siti porno del pianeta. Nel browser Maya Linux fa... e all'avvio fa ah quella è un'altra. Com'è che fa, scusa? Ah capisco. La versione donna invece, la versione uomo fa no, non lo posso fare. Mi sa che le hai invertite, però non vorrei dire, ma io preferisco che la versione uomo faccia abbia le donne. Allora non sono diversi, sono diversamente eterosessuali, ecco. Distribuito. Ecco, è veramente una puntata sessista questa di Opencast. No, ma poi 26. Parliamo di Opencast Alpha Male. Alpha non abbiamo, non abbiamo ancora cominciato a far battute sulle donne al volante. Allora, smettiamolo. Smettiamola immediatamente, prima che ci chiudono. Già non siamo aperti, poi ci chiudono, eh? Tornerà, allora... Hai pensato diversamente di te. Allora. Violazione totale del copyright questa sera. Stasera Ale. Così, facciamo un nome allora questo. Sarà punto. Stato il cinese. Vabbè, fatemi parlare di sta roba. Lo facciamo uscire il cinese. No, lascialo lì. Tell Johnny. Perché abbiamo un cinese che si chiama Johnny poi? Liso soia funghi. Vabbè. Soia funghi? Funghi soia liso. Liso foia sunghi? Liso foia sunghi. Sì, è nuovo per pavimenti. Liso foia sunghi. Liso foia sunghi. Liso foia sunghi casa. Oh. Per splendore profumo di sottobosco. Mr. Brillio. Non bastare profumo di sottobosco al tuo marito? Usare liso foia sunghi. Ma voi lo sapete quanti sono quelli che state prendendo per il culo? Cioè, miliardi. Se dovessero trovarsi tutti qua sotto, siamo rovinati. 5 secondi ci uccidono. Ma cioè, io penso che non manchi molto trovarsi tutti qua sotto. Esatto, anch'io credo lo stesso. Comunque, torniamo a Mandriva. Smettetela. Allora, non sarà più un CD live. No. Hanno deciso che si torna alle vecchie sane installazioni. Ai floppy. Peccato che. Sì, probabilmente sì. Si è distribuito su 40.000 floppy. E il problema è che sono tornati al vecchio installer dell'anno del 2010. Perché? Quello che non funzionava. Modificato, esatto. No, il 2011 non funzionava. Il 2010 funzionava quasi decentemente. Peccato che scazzava in modi diversi. E vabbè, provatela. È un alfa. Funzionerà di brutto. Vabbè. Altre cose basta. C'è chi piace vivere pericolosamente. Ci sono delle news scioccanti. Io per esempio due volte alla settimana vengo qui. No, questo non si può dire. Due volte alla settimana vengo qui a registrare. A me piace vivere pericolosamente. Due volte alla settimana vieni qui a registrare. Sì, ma pensando... tu non ci sei. Ah, ok, no, va bene. Dopo due volte a settimana vengo, passiamo la parola. C'è una news scioccante. News scioccante. L'abbiamo annunciata settimane fa. Sì, perché lo sapevamo, signore, che sarebbe perché successo. Perché noi sotto lo sapevamo. E sapevamo. È uscito. Skype 4.0 per Linux. Sì. Allora, attenzione. Ve la siete cercata, eh? Ve la siete cercata. Skype 4.0 per Linux. Non è facile. Cioè, siamo passati dalla beta 2.5. Dalla beta 2.2 alla 4. Cioè, 4. Così, senza mezze misure. Diciamo che è come Android. La 3 non è stata rilasciata. No, c'è stato però la 3. La 3 non l'ho vista. Fino alla Panicant. Ma no, parlavamo di Skype. Di Skype. Ma lui ha detto it's a trap. Vai avanti. Liso funghi casa. Fatto uscire... Ma l'abbiamo provata? Tutto... Non l'abbiamo provata. No, mi ha visto la news, non ci credo. Visto la news, ho detto oddio, non ci credo. Cioè, io ho delle persone che partono per la Cina tra pochi giorni. Io non gliela installo. Perché... No, dovresti installarla. No, non mi fido. Guarda, meglio della 2.2. Secondo me non ci vuole molto. Può solo andare meglio. C'ho paura. Liso funghi? Allora, però vorrei segnalare un bug di Android 4 con alcuni bug. Cioè, non dirlo più, Vabbè, volevo salutare Android 4. No, la Vodafone ha dei problemi su alcuni terminali Android 4. Che vanno risolti col cambio della SIM, perché dicono che le SIM sono obsolete. Sì, what? Sì. Per esempio, non c'è una buona ricezione. I messaggi arrivano tardi. Sono ritardati. Escono quando vogliono, arrivano tardi. Escono quando vogliono, veramente. Io inviterei a tutti a cambiare operatore a questo punto. Che cosa passiamo? A Poste. Ma io passerei a Poste Mobile, a Opencast Mobile, nuovo operatore di telefonia mobile presente in Italia. Chiama chi vuoi a 0 euro. Tanto chiami con la wireless del vicino in VoIP. Abbiamo dei prezzi vantaggiosissimi. Allora, non è che si può funzionare tutto in modo legale. La tecnologia su cui ci appoggiamo si basa su due bicchieri di carta bucati agli estremi, un leggero filo che li collega da casa a casa. Perché abbiamo finito un filo di plutonio. I barattoli... Ragazzi, contatore Geiger, 15 euro su internet. A proposito, ragazzi, 15 euro? Sto cercando da un sacco il contatore Geiger. L'abbiamo visto ieri sera. A 15 euro? No, l'abbiamo visto fisicamente. Che faceva bip, bip, bip. Indovina chi ce l'aveva. Allora, chi può averlo? Malato di testa proprio. Ah, scusate, io avevo il contatore Geiger. No. È uno del gruppo proprio. È uno che salutiamo, è un amico. L'abbiamo avuto anche in trasmissione qualche volta. È uno volta. Che sta in alto nella gerarchia del gruppo. Però diciamo che non è il presidente. Mi mettete in difficoltà perché non voglio fare nomi. Bravo, allora, non fare nomi. Facciamo IP. No, perché lui lavora sotto Tor. Facciamo, cioè, nel senso, lui usa Tor. Sì. Vabbè, Allora, intanto che tu ci pensi, io farei una piccola... Salutiamo gli amici di Livorno che ci ascoltano. E vabbè, sì, anche se non so, conoscete questa persona, andate sulla fiducia, perché noi abbiamo, cioè, nel senso, ci stiamo attrezzando per, come abbiamo detto già prima, con la maglia Linux, eccetera, per la fine dei tempi. E quindi il contatore Geiger serve assolutamente. Serve. Esatto. Ragazzi, se avete in giro del plutonio, perché noi abbiamo questo contatore, ma non sappiamo se funziona. Vorremmo provarlo da vivo. Sì. Assolutamente provarlo. Per ora sono stati contattati dei... Mandare in Ticosa a provarlo, no? No, c'è già andato, ma da quanto Sant'Anna. Capito non... No. Neanche l'ospedale Sant'Anna. No, allora, il discorso è... nuovo. Ha trovato un'officina meccanica che non ho capito perché gli ha detto che... Ha del plutonio. Ha del plutonio. Sì. Ah, no, sì. Ma quella la gestisce un mio amico, perché c'è... sì, perché c'è un tizio con una DeLorean che se ne va a spasso. Ecco, vedi, che ha bisogno di 1,21 giga. Ma non è quello che ha... Quella comunque è la versione vecchia, eh. È la versione vecchia, perché quella nuova... Quella nuova rifiuti. No, però, è spazzatura. Sì. Però col plutonio riesce ad andare un po' più indietro con gli anni. Secondo voi, ragazzi, perché io ho un cane che produce metano? Non lo voglio sapere. E soprattutto non voglio pensare al fatto che il cane in questo momento è in questa stanza chiusa qua con noi. Grande Giove. Ecco, intanto, perché gli ha attaccato. Intanto che pensiamo a tutto qua, intanto che pensiamo a queste cose belle tutto nella vita, io farei un piccolo stacco musicale. Che bella la musica. Restando in argomento, questi sono gli androidi. I'm not afraid to die. Opencast Alpha, puntata numero 26, una puntata direi spumeggiante fino a questo punto, tanto per usare un giro di parole. Spumeggiante! Dobbiamo farle molto più spesso queste così, puntate così chiuse. Post-cinese. Chiuse col gas. Post-ticinese. Post-cinese. Ah, no, ne approfitto, ragazzi, di questo momento. Se facciamo una puntata post-ticinese, voglio vedere come viene. Dica. No, volevo approfittare di questo momento per ricordarvi che tutte le puntate dalla 0 fino alla 24 sono disponibili su www.gl-como.it. E potete trovare tutti i link alle canzoni che vi abbiamo fatto ascoltare e che vi siete ascoltati. Stavo pensando alle cavolate che abbiamo detto, però. No, ma quello non è fondamentale. Ok. Sì. Parliamo di cose. Allora, abbiamo parlato di distribuzioni di qua, distribuzioni di là, ma la nostra distribuzione preferita Super Slow Anna Montana Linux. No, allora quella è la nostra distribuzione preferita, ricordiamo a tutti. Anna Montana Linux. Scaricatelo. Anna Montana Linux. No, parliamo di cose serie. Ma non c'è Justin Bieber? Justin Fiefer Linux. C'è anche quella. So. C'è. Oh mio Dio, va che cade, piano. Cade la nostra produttrice di gas. Comunque, Ubuntu 12.0.10. Oh, no, Ubuntu 12.0.10. Ci sono le nuove. Che cosa nuove ci sarà? Indiscrivimelo. Ma non c'è una versione 21.12.2012? No, ancora non. Vabbè. Comunque, quella sarà l'ultima versione. La fine di Ubuntu. Ci sono delle cose nuovissime. Che non l'aspetta nessuno. La nuova versione sarà scaricabile direttamente su una ISO da 800 mega. E dove me la metto? Vabbè, la masterizzi su un CD. Su un CD? Sì, di quelli apposta. Quelli da 800 mega. Sì, che ne hanno venduti 6 forse. No, forse ne ha un paio 6. A caso. E funzionano su 4 masterizzatori. Volete, vogliamo parlare dei CD-ROM del Sega Dreamcast? Allora. Vogliamo parlarne. Siamo arrivati a 1 GB. Non toccare i CD-ROM. Un gigaglione. Amo, io ce l'ho avuto 3 volte in Sega. Amo! Quindi io allora, non te li tocca nessuno. Si tocca. Non te li tocca nessuno. Giro. È sacro. Non ti tocca il Dreamcast. Salutiamo Sonic Adventure 1. Vabbè, and dai. 2. Parliamo di Shakyamuni, no, come non ce la faremo mai. Shakyamuni non è vero. Shakyamuni è un saccone di vabbè. E Shenmue quanto era bello? Shenmue, volevo dire quello. Infatti. Era un gran bel gioco. Shenmue 1, l'1 e il 2. E poi l'hanno fatto anche su Xbox. Sì, però non è la stessa che cosa. Che bei ricordi, non ce la faccio. Stiamo tutti aspettando il 3, quindi. No, io sto aspettando una nuova console della Sega. Pensate che la volevano chiamare Sega Duron. Inizialmente. Poi hanno interpellato Sega Italia. Sega Duron hanno detto che non era una buona idea. Guardate, qua già abbiamo dei problemi. No, col nome. Già solo col nome. E col fatto che voi lo pronunciate anche Sega. Adesso tanto non è che facciamo pubblicità. No, Sega Duro. Cioè, no. Lo facevano blu. Fortunatamente a suo tempo MD uscì col Duron per prima. Per fortuna. E andavo in farmacia, mi dà Durex quelli ultra soft e un MD Duron, grazie. Grazie. Come grazie. Dire, io di videogiochi non me ne intendo una Sega. Infatti, non me ne intendo una Sega. Ma una sì, Sega. Ma tanto ormai buttiamoci lì. Allora, la Wii U è ufficiale, eh? È ufficiale, sì. Esce. La nuova rivoluzione sarà che non serve più il televisore per giocare. Perché? Ti danno lo schermo integrato nel controller, comodissimo. Che se ti cade il controller ti sono caduti 9 milioni di euro. Sono, ma sarà un pollice. Sarà 130 euro di controller. No, sono 7 pollici. Sono 7 pollici. Ma scusa, c'è un controller che è come un gioco portatile. È sì, come se fosse una console. Tu compri la console. Scusa, ma un tablet faceva schifo. No, è un tablet. Con i controlli a fianco. Poi un bel sono tablet perplesso. Android. E via. Ma no, è un tablet che si attacca alla console. Sono molto perplesso. E la Sony prontamente ha risposto dicendo cosa? Vabbè, che lo fate cagata. Voi, noi abbiamo la PS Vita, lo facciamo anche noi. Tante care cose. Sì, ecco. Però sono sempre più perplesso. Sempre più perplesso. Sì. No, veramente non mi sembra così rivoluzionaria questa Wii U. Comunque però, siamo partiti da Ubuntu. Vedrà. Vabbè, no, perché sì, le nuove console dobbiamo dire che interessante hanno. Ho capito, anche non gliene frega niente a nessuno. No, ci sarà la possibilità. Ho avuto una dritta. Ci sarà la possibilità di installare Linux, per esempio, su alcune delle nuove console. Ma poi, dopo tipo 2 mesi, la toglieranno questa possibilità. Ah, come quando mi sembra di averla già sentita. Come storia. Mia mamma, quando ha comprato la macchina, 5 porte, a un certo punto si è trovata nel parcheggio, è diventata 3 porte. Oh, via. E gli hanno detto, signora, purtroppo abbiamo dovuto fare un limite perché ce la craccavano, se no entrava la gente da dietro. Se no entrava la gente da dietro. È che mia mamma ha detto, ma io l'ho comprata perché c'entrasse la gente da dietro. Niente, loro non hanno voluto sentire parlare di queste cose. stai già tagliando tutto, Fabio, grazie. Ma, ragazzi, prego. Cioè, ma voi la capite la drammaticità? No, l'intelligenza che c'è in quest'uomo che fa questi paragoni così paragonati. Grazie, è difficile da capire. Cioè, io me lo immagino. È uscito Reconk 1.0. Chi se ne? Non è facile. Vabbè. Ma chi è? Il browser quello KDE-oso. Non conosco. Io uso solo GNOME 3. Facilmente. Ho comprato un telecomando universale, ragazzi. Veramente allora, tantissima. Ve la siete cercata, eh? Eh sì. È quello della. Sì, non si può dire. Non si può dire tech. Guarda, un Logi. Modello Ento. Modello Harmonia. Sì, modello Harmonia della tecnologia logica. Modello. Ma siamo ancora in tema preservativi? Sì, no, tu ti fai un Harmony, te lo guardi bene e ti prendi bene, insomma. E poi vai a chiedere il solito MD Duron se ce l'hanno ancora. Se non ce l'hanno, punta su un Apu. Birra Sing Tao. Punta su un Apu che ti trovano un indiano che esce fuori dal balcone e ti fate quei lavori. È possibile mettere all'inizio della puntata una voce che dice puntata vietata ai minori di anni 18 e 18. Minori accompagnati. Una roba del genere. Ci si può provare. Grazie. Viewer discretion is advised. Le mutande passano. Sì, ma qui non ci vede nessuno. Quad damage. You have taken the lead. Listener discretion is advised. Vogliamo andare avanti e dire qualcosa intelligente o continuiamo? Non lo so, così? Io ho perso la speranza ore fa. C'era anche voi che entrate. Voi che entrate. Parliamo allora di Godi. No. Smartphone. Godi Fiorenza. Ok, ecco. Adesso puoi parlare. Smartphone. Smartphone. Inferno. Dicono che diventeranno tra poco più degli umani gli smartphone. Nel senso si riproducono. Nel giro di qualche anno diventeranno 9 miliardi e razzano. Noi saremo ancora meno. Quindi come quindi in un futuro il mondo sarà in mano agli smartphone e noi non hanno le mani. E noi saremo costretti una manciata di sopravvissuti a vivere sottoterra. Ecco. Ma poi gli forniremo l'energia. Tipo batterie. Perché l'ho già vista. Sì, anch'io. Sì. Va bene, direi che stavi dicendo qualcosa di interessante, scusa. Sì, sugli smartphone. però adesso che hanno il quad core... Che fortuna. Come la mette? Cioè, io voglio la batteria di Terminator 120 anni, perché sennò come li mandiamo avanti sti quad core portatili? Vedi che tutto arriva lì. E comunque anche oggi c'è stato un nuovo discorso. Ma Android è open source o no? No. E soprattutto, cosa aspettate a metterlo nei televisori, maledizione? Android? C'è già. Lo so che c'è già, però di però, massa. Quello che e voglio una webcam. Voglio parlare con mia zia in Australia con Skype su un 50 pollici. Ma perché? Che così è il 4.0. Perché la zia è la moglie giovane dello zio australiana. Per quello che... Non l'avevo capito. Perché non è facile. Abbiamo delle foto? No. Un attimo che guardo. No. Ma questa aspetta, no, questa no. Ma un video. Ma, ah, però. Un video. Non me lo ricordavo questo. Guarda qua. A proposito di Gnome, pensavo di video. A proposito di Gnome. Gnome è uscito. Ma poi torna. Il Gnome App Store. Cioè l'App Store di Gnome. Ma cioè non c'era fatto... Synaptic. C'è anche il Facebook Store. Ma c'è lo Gnome App Store. Adesso venderanno roba. Con 2B. Tu pensa. Pensa che alla Carrefour hanno aperto il loro store. Adesso, cioè, vendono anche i loro prodotti. Pazzesco. È pazzesco, veramente. E comunque, qua c'è già chi specula su un possibile Gnome OS. Ma io sono uno zerbino a forma di piede di Gnome me lo prenderei. Per caso. Ah, lo vendono? No, ma vendono app. Non è ancora Gnome Gadget Store. Quello sarebbe stato più interessante. Sarebbe decisamente. A proposito di zerbino a forma di non c'è il letto di Ubuntu invece che mi piacerebbe averlo. Ubuntu? Sì, il letto di Ubuntu, cioè nel senso. Che senso? Passo tu Ubuntu. No, quello dove stai abbracciato, insomma, che si sta abbracciati almeno in tre. Sei un porco. No, quello è simbolo. Ehi tu, sei un Maya Linux. Levale le mani di dosso. Ehi tu. Oh, ehi tu, grande Ubuntu. Citazione, che grande citazione. Dopo veramente l'1,22 gigawatt 21 grande gioco. Casa 1,21. Citamelo. 1,21. Chiedo scusa. Era 1,21. Va bene. Cioè, tu stavi finendo parlare di Ubuntu, ma non ne frega niente. Vabbè, nessuno. Ormai io tanto... avevo solo una domanda. Adesso... Ma di che colore lo faranno lo sfondo? Trasu de Chuck. Esatto, solito colore. Per chi non fosse proprio della zona, vomito di ubriaco. Che zona? Rigurgito di persona che abbia avuto troppo. Solo sì, vino. No, però. Scusa, sarebbe rigurgito di persona diversamente sobria. Diversamente sobria. L'isofungo pavimento. Va bene, vogliamo fare una veloce excursus della situazione su DistroWatch? Sto aspettando lo stacchetto. E allora andiamo con l'angolo di DistroWatch. Buonasera, benvenuti all'angolo di DistroWatch. Questa settimana non è uscito, è uscita molta roba nelle ultime due settimane, abbastanza tristi. Tipo, avevamo parlato già di Snow Linux, questa bellissima distribuzione, che però adesso Snow Linux Group, perché fa beep? S'è rot. Vabbè, comunque preso benissimo. Snow Linux è uscito nella release 2 e monta, indovinate un po', Cinnamon, che oramai sembra andare per la maggiore in tutti quelli che non vogliono più usare GNOME. Non come qualcuno che usa ancora. C'è odore di salame qua sotto. Non è salame. Perché c'hai incontro qualcuno, la gente che usa GNOME? Abbastanza, sostanzialmente abbastanza. Ma non vedo perché, tu usi il Mac, scusa. Non si può dire quello. No, vai avanti. Vado avanti. Dopo di quello è uscito una versione di Corora Linux. È uscito Zeven OS, che per tutti gli amici Zeven OS ricordiamo essere una distribuzione che emula quello che era il vecchio BIOS. BIOS, cioè un distro Linux che emula BIOS, cioè non che lo emula, cioè, graficamente. Graficamente, okay. Assolutamente, okay. Perché ricordiamo che il BIOS dopo è diventato Z. Z al giorno d'oggi stiamo aspettando di Haiku. Stiamo tutti aspettando Haiku. Esatto. Detto questo, è uscita una development release di OpenSUSE, la 12.2 beta 1, Ubuntu 12.10 Alpha 1, che abbiamo parlato. E poi è uscita, per la gioia di tutti i fan di Gentoo, passata giapponese, Sabayon Linux 9, quella italiana. Esattamente, è uscita la versione 9 con tante care cose di novità, sono molto contenti. Ma no. 3.2.3, KDE 4.3, XFC monta solite cose. Il kernel 3.4 monta già. Uomo che segue DistroWatch, sì, mi dica, dov'è la mia amata? A che posizione è? Allora, facciamo una classifica, dai. La top 10 di DistroWatch. Al 19° posto, solo per chi l'ha appena richiesto, citiamo Gentoo. Scusa, la top 10 è parte al 19. Vabbè, lo voleva sapere. Va bene, ok. Mi dispiace, okay. Fa niente. Perché se dicevi top 19, lui era già su YouPorn. era già partito. Al 10° posto abbiamo PC Linux OS. Sì. Al 9° posto abbiamo Puppy Linux, quella bellissima distribuzione. È incredibile come sia sempre molto in voga. Strano, eh? All'ottavo posto, sempre te che la scarichi. All'ottavo posto la distribuzione è quella, diciamo, una delle più serie della CentOS. Vabbè. CentOS. Gioca con noi il signor Nicola Di Bari. Signor Nicola Di Bari, quanto costa questo laptop che monta una APU AMD E450? Ma l'APU è fuffa! No, non è Fusion, signor Nicola, è APU. Facciamo 200 euro! Vabbè che fanno cagare, però. Hai detto te? Però alziamo un po' sta volta. Così, eh? Adesso andiamo avanti. Comunque, vai. Finiamo la classifica qua. Allora, al 7° posto abbiamo Arc. Arc che è lì e non la tocca nessuno. 6° posto, ne abbiamo appena parlato, OpenSUSE. Era una bella distribuzione. Al 5° posto, vabbè, qua si inizia ad arrivare i nomi pesanti. Abbiamo Debian. Importante. Deve esserci. Al 4° posto, attenzione, abbiamo Mageia. Come Mageia? Mageia, al quarto posto abbiamo Mageia, che è... wow. È perché controlla la casa di Stark, Tony Stark. Tony Stark? Sì, Mageia. Mageia. Mageia, e c'ha tutte le armature che... Al terzo posto abbiamo... Beve. Fedora. Nella sua ultima, di cui abbiamo appena parlato settimana scorsa. Fedora invece è a casa di Hulk. Al secondo posto è ancora lì la nostra amichevole Ubuntu. Al secondo? Al secondo posto. Beh, allora che perché al primo posto abbiamo, con il doppio delle hit per day rispetto a Ubuntu, Linux Mint. Cacchio, già raddoppiato? Tanta roba. Diciamo che oramai non lo vede più. Non lo vede più. E comunque... questo ma hanno risolto poi i problemi di Strawatch delle licenze. Licenze. Vabbè. Licenze. Allora. Parole così senza senso. Parole in libertà. Palabras. Licenze. Vabbè. Solo palabras. Va bene, possiamo considerarlo concluso allora l'angolo. Ed è finito l'angolo di Strawatch. Un saluto a tutti gli ascoltatori. Avete ascoltato l'angolo di Strawatch con la base di Il Gaggo. Non capisco perché, ma mi sembra che l'angolo di Strawatch sia quello più curato di tutto il resto. Più che curato, sponsorizzato. Non credo. Capisco, sì, ma ci dà dei soldi. Ma io non ho capito, ma le majorette, ma da dove cavolo sono uscite? ma quelle servono sempre. Ma soprattutto dove cavolo stavano andando, ragazze? Dai, che poi mi picchiano. Chi? Le majorette. Ah, ok, col bastone. Oh, scuratami. Va bene, direi che la puntata sta prendendo una deriva un po' così, Comunque, ragazzi, ho passato una settimana a litigare con i driver proprietari di Nvidia. Io li installo e vanno. Ma ci sono delle opzioni del kernel. State attenti all'opzione IMOO, una cacchio di opzione dei processori che ti blocca tutto. I driver proprietari mi hanno cotto il razzo. Io ho installato una 3DFX. Dove l'hai trovata? Isly. Una Voodoo 5 quale? 5000. Sei bella. C'ho uno dei pochi esemplari a casa. Io ho ancora una Voodoo 3000. C'è gente che potrebbe uccidere per averla. Io ho una Voodoo 3000 che era quella con l'environmental bump mapping supportato. Infatti è stata quella del salto verso il fallimento. La Voodoo 3000 però no, era l'ultima bella. Dai, l'ultima. Peccato che aveva 16 mega di RAM, tipo una cosa tristissima. Ma ti bastano. Sì. Più di così cosa te ne fai, scusa? Cioè, adesso ce l'hai sul telefono. Appunto, di più. Anche un po' di più. Ciao. Abbiamo altre cose interessanti, intelligenti da dire? Intelligenti? Sì. È uscito telepati. Questa non è cosa importante. Parla a te che sei molto più bravo di no, questo. Niente, più che uscito telepati, perché telepati è già uscito. Stanno lavorando su telepati KDE, diciamo l'integrazione di telepati in KDE, e gli ultimi sviluppi hanno portato il supporto alle videochiamate direttamente da KDE. Ciao K. Ciao DE. Come debutta? De. Ude. K. E oltre a questo direi che abbiamo raggiunto il fondo. Sento proprio la parte intelligente. Sento era proprio la parte bella dell'angolo di destro. No, è finito. Hai le zanzare kamikaze per casa? Perché c'è una cosa che mi è entrata proprio in un posto che non so come cazzo fa. E poi te lo spiego. Va bene. Ancora una volta Opencast Alpha sul nostro sito www.gl-como.it. Se volete lasciare tutti, attenzione, devi dirlo. Gente, venite e registratevi al forum. Pensavo alla festa salamella. Io fossi in voi aspetterei, perché ieri sera dopo un aggiornamento dei temi non c'entra più un cazzo. Non c'è più il logo, le pagine. Però il forum funziona. Ho provato oggi. Ma il CSS funziona a cacchio. Esatto. Ma il CSS è rot. Va bene. Lo sistemeremo intanto registrati. Sar root. Va bene. Sar root. Comunque, lasciateci dei commenti anche alle varie puntate dell'Opencast. Come? Alle varie puntate. Puntate. Noi ne saremo molto contenti. Salutiamo tutti quelli che ci ascoltano con passione. Da Kansas City fino a Reggio Calabria. Dalle Antine Alleante. No. Alleante. Dagli Appennini Alleante. Dalla Norvegia, soprattutto le norvegesi. Andiamo ad Aspen. andate sugli Appennini. Salutiamo le nostre. E su questa era una citazione. Aspennini? Da cosa viene questa citazione? Scemo e più scemo. Sì, vabbè, però il pubblico a casa cosa risponde così? Lo sai che non vinci niente, te. Non vinci parte del posto qui. Era una domanda per il pubblico a casa. Cosa ho detto? Ah, ho dato la risposta. Hai dato la risposta. Ma io ho guardato solo voi due e mi è venuto a dire sceme più sceme. Allora, sì, vi ricordo che il ragazzo ha ancora a casa la fornitura per un anno di Asciugoni Melodia, ok? Sì, quella che ha vinto con l'ultimo. Un'altra volta. A proposito di Asciugoni, compro le cagnistracci. Questa citazione sarà la domanda per tra due settimane. Ecco. Rispondete numerosi. Io non dico nulla a sto punto. Va bene, allora. Però la sai. Vi lasciamo con un nuovo pezzo dei Drunk Source. Che bella la musica che ho scelto io. Che bella la musica che ho scelto io. Meravigliosa. Sì, diciamogli tutti in è coro. È poco ottobittosa. Tutti in coro. Che bella la che musica. Che bella la musica che hai scelto. Va bene, ragazzi. Ciao. Pagato da mangiare. Bravo, oh, infatti. Insomma, lol. Pavimento a fungo. Neanche da bere ci ho offerto. Gaggo, sei in diretta sull'Open Cast Alpha. Ciao. Ciao, saluta. Dici un sicché. Sicché. Grande. Grande, grandissimo, bravo. E se ti dicono eh? Tu rispondi? Puppa. Oh, benissimo. Abbiamo dato un senso alla serata ora.